Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, ultimo giorno dell'anno, fervono i preparativi per il cenone, per i balli, e io invece vi dico: rallentate e osservatevi. Oggi osserviamo le nostre unghie, sì, perché se si presentano ben curate, con un aspetto lucente, sono sane, oltre che a farci fare bella figura, raccontano qualcosa di importante della nostra salute. Oggi noi parleremo di unghie fragili, di unghie che cambiano forma, magari di unghie che fanno male, perché da questi dettagli, questi sintomi possono rivelare problemi piccoli e grandi dell'intero organismo. Allora guardatevi le vostre unghie con occhio critico, di mani e di piedi naturalmente, perché oggi avremo modo di occuparci di loro a 360 gradi senza trascurare anche la bellezza. Il giorno lo impone. Ne parliamo oggi insieme alla dottoressa Sandra Lorenzi, direttore scientifico dell'IDE, che è l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Buongiorno dottoressa, auguri. Auguri a tutti voi, grazie, buongiorno. Dottoressa, si dice che le unghie siano lo specchio della nostra salute, perché quando il colore delle nostre unghie diventa diverso da quello normale, oppure diventano fragili, o quando ancora cambiano forma, o magari fanno male, possono anche rivelare dei problemi e quindi fornire al medico delle indicazioni importanti, è vero? È vero, è vero. Direi che già dalla medicina orientale le unghie sono un indice di buon equilibrio fisiologico e di buona condizione di salute, mentre in realtà una specifica semeiologica delle alterazioni dell'apparato ungueale può aiutare già da sola a diagnosticare anche una patologia internistica non ancora ben conosciuta. E questo basta osservare le unghie, basta vedere, come hai detto tu, giustamente il colore, la loro forma e la loro superficie per avere già un indirizzo diagnostico. Dottoressa Lorenzi, avremo il nostro da fare perché ci occuperemo, abbiamo detto, delle mani e di quelle dei piedi, ma iniziamo ad osservare le unghie delle nostre mani. Soprattutto noi donne abbiamo il problema della fragilità. Le unghie si spezzano, questo perché spesso noi donne le teniamo a bagno, usiamo l'acqua, i piatti, il bucato a mano, ma è solo per questa ragione o c'è dell'altro? Ma no, direi che la fragilità ungueale è sicuramente una delle patologie più frequenti, soprattutto nel sesso femminile. È vero, legato a una diminuzione della quantità di acqua, ma ha degli aspetti anche più importanti. In realtà esistono delle forme di fragilità che sono idiopatiche, quindi persone che hanno proprio una predisposizione della cheratina più fragile. E quindi nascono così, e chiaramente col passare del tempo, quindi con l'invecchiamento fisiologico della lamina, il problema non può altro che peggiorare. Poi ci sono quelli che hanno una fragilità per traumi, e questo di solito è appannaggio specifico di alcune categorie di lavoratori, pittori, chimici, quindi chi usa molto le mani senza in realtà proteggerle. Già. Poi in realtà la fragilità fa parte della sintomatologia di numerose malattie dermatologiche, molte malattie, quindi la psoriasi, il lichen, si esprimono attraverso una fragilità della lamina ungueale. E poi gli stati carenziali, quindi la carenza di alcune sostanze importanti, quindi da sia vitamine che aminoacidi, solforati e non, può esprimersi con una fragilità. Quindi il problema non è così semplice, quindi la fragilità va sì diagnosticata attraverso la clinica, ma serve una corretta, una buona anamnesi, perché può essere anche la spia di qualcos'altro di importante. Occhio alla forma, al colore e alla superficie. Dottoressa Lorenzi, queste sono le tre variabili, i tre indicatori che prenderemo in esame oggi per le unghie delle nostre mani e dei nostri piedi, vero? Bene, sì, beh, la forma chiaramente importante, questa è una cosa che salta subito all'occhio, la variazione, quelle incurvature strane, particolari che assumono le nostre unghie. Il colore, lei pensi che nella semiologica ungueale si parla di colore bianco, giallo, rosso, verde, nero, quindi pensi le variabili. Ce ne fanno vedere di tutti i colori queste unghie, eh? Pensi le variabili che ci sono. Come fossi un cane, come un gatto trasfavilli gli occhi tuoi. Le unghie sono artigli che dormono però, ti diventano consigli se ti rispondono. Unghie, tiratele fuori, o meglio, per riprendere la canzone di Celentano, tirate fuori gli artigli. A questo proposito vi leggo un sms di Mario che ci scrive: mia moglie non ha delle unghie, ha dei veri e propri artigli. Dottoressa Lorenzi, ma sarà vero o ci vorrà dire qualche altra cosa? Potrebbe essere vero, nel senso che sicuramente la consistenza, quindi parliamo di consistenza delle unghie, è molto variabile, e come dicevo ci sono delle persone che non hanno sicuramente problemi di fragilità. Questo vale come regola soprattutto nelle unghie dei piedi. Le unghie dei piedi si comportano in maniera esattamente opposta a quelle delle mani. Perché sì, diventano più spesse rispetto a quelle del vero. Fragilità nelle mani, ispessimento per le unghie dei piedi. Ma noi abbiamo i nostri amici da casa che ci chiamano e ci aiutano con le loro domande a fare luce su questi problemi. Andiamo subito a Milano, vicino quindi, c'è Giulio. Giulio, buongiorno, auguri. Buongiorno, auguri a lei. Allora, ci racconti. Con lei andiamo sulle mani o sui piedi? No, sui piedi, nulla di grave in realtà. Sì. Però, pochi giorni fa ho osservato che sulle unghie dei piedi non sono più lisce come erano, insomma, l'ultima volta che ho guardato, ma hanno presente la superficie un po' raggrinzita, un po' ondulata. Al contrario, quelle delle mani sono sempre perfette, come sempre. Sì. E volevo chiedere, approfittando della dottoressa... Bravo, Giulio. Allora, dottoressa Lorenzi, Giulio ci porta a quell'indicatore che avevamo evidenziato, che è la superficie. A volte la superficie non è completamente liscia, diventa un po' ondulata. Allora, generalmente, parlo per come posso avere adesso nel mio immaginario questa situazione, la presenza di onde vengono sulla superficie unguale, viene definita proprio a un termine specifico, queste vengono chiamate linee di Bo. Le linee di Bo sono espressione di una sofferenza della matrice, quindi della radice dell'unghia. Ogni volta che la radice subisce un insulto, lei cessa di crescere e poi rinizia. Sì. Quindi tutte le volte che rinizia dà origine praticamente a queste depressioni, ok? È come se l'unghia avesse un po' il singhiozzo. Bravissima, come se l'unghia avesse un po' la carina, bellina. Le linee di Bo generalmente sono proprio espressione di un trauma della scarpa, quindi come, non so se il signore va a fare delle camminate, se fa footing, se fa adesso glielo chiediamo, Giulio. Giulio, sì? lei fa camminate, usa, non lo so, va a correre, ha cambiato scarpa di recente? No, però d'estate, quando, insomma, quando il tempo lo permette, andiamo in montagna a camminare, quello sì. E allora potrebbe essere un regalo delle scarpe che ha utilizzato in montagna quest'estate, dottoressa Lorenzi, magari delle scarpe comode, ma che gli hanno provocato in qualche modo dei piccoli traumatismi? Le passeggiate in montagna sono fatte da sali e scendi, mm-hmm. e quando si è in discesa si ha questo insulto continuo, piccolo microtraumatismo dell'alluce contro la punta delle scarpe, che produce tipicamente queste alterazioni. Giulio deve considerare che poi l'unghia ci mette un anno per cambiarsi tutta completamente, quindi in realtà ritroveremo una lamina perfetta quando sarà l'estate prossima. E poi attenzione, perché poi dopo l'estate prossima dobbiamo usare un po' più attenzione, se le scarpe devono essere non troppo grandi, devono essere comode, ma il piede non deve avere molto gioco all'interno della scarpa. E se questo non è possibile, perché a volte dei piedi hanno delle conformazioni particolari, sono molto magri e sì, quindi giocano molto in alcune scarpe, proteggere l'alluce con un cappuccio in silicone aiuta la lamina ungueale. Voilà, Giulio, recepito? È stata chiara la dottoressa? Perfetto, Lorenzi. Ma niente, nulla di grave. Insomma. Nulla di grave. E poi avrà un'unghia liscia come il velluto fra un annetto. Giulio, d'accordo. Auguri. Andiamo, ringrazio, auguri. Andiamo a Ferrara. C'è Laura. Laura, sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora. Io ascoltavo la dottoressa a proposito delle unghie e volevo sottoporre un problema che è di mio marito, non è mio. Che a lui si sfaldano le unghie delle mani, ma in senso verticale, sì, non in senso orizzontale. Quindi il fastidio è incredibile e le unghie sono anche poco belle poco da vedere, belle. Ma non è solo un senso estetico, è proprio un fastidio nell'uso, insomma. Quindi, siccome lei parlava di problematiche a livello fisico, volevo sapere se questo aveva un riscontro. Grazie Laura. Dottoressa Lorenzi, si sfaldano in verticale, sembra strano. Beh no, ci sono diverse patologie che possono dare un quadro clinico di questo tipo. Ne esiste una in particolare che viene chiamata lichen Luber planus, è una particolare patologia dermatologica della pelle, ma che si presenta tipicamente a livello delle unghie con delle vere e proprie fissurazioni. Sì. Quindi in realtà il paziente, al di là dell'aspetto estetico, lamenta delle grossissime difficoltà manuali, perché queste unghie si spezzano ma si impigliano praticamente in tutto ciò che viene toccato, e è una patologia questa che tende a dare origine a una fragilità molto molto importante della lamina ungueale, per questo che le unghie si sfaldano con delle vere e proprie fessure, e va curata. Si può curare con successo, quindi? Sì, si cura con successo, va diagnosticata e curata, perché in realtà potrebbe dare anche poi problemi anche più importanti, nel senso che è una patologia che può proprio danneggiare in maniera poi irreversibile anche la lamina ungueale. Consiglio al signore di farsi vedere un'occhiata da un dermatologo. Sì. Dottoressa Lorenzi, a proposito di fragilità, alcuni messaggi arrivano, ma noi lo diciamo, unghie fragili, manca qualcosa. Manca, lei ha detto che la fragilità può avere diverse cause, una di queste, che suggeriscono ben 7 messaggi, è la mancanza di calcio. È vero, dottoressa Lorenzi? Oppure no? È la favola di Pinocchio. Perché tutti noi pensiamo alle unghie e le associamo al calcio. In realtà ne avevamo in parte parlato già in un'altra puntata, ma Repetita Juvent, che il calcio non c'è neanche nelle unghie, nel senso che nei tessuti cheratinizzati, quali sono quindi la lamina ungueale e i capelli, il calcio non c'è e non ha sicuramente una rilevanza. Esistono praticamente altre sostanze, altri oligoelementi molto importanti, sicuramente tra questi il ferro. Se vogliamo parlare di un oligoelemento importante, è il ferro. E come mi ero espressa precedentemente, quando avevo detto che la fragilità può essere la conseguenza di uno stato carenziale, effettivamente uno degli esami più importanti che si fa quando c'è una fragilità è proprio la valutazione del ferro, di alcune vitamine del gruppo B, soprattutto la vitamina B6, ma è presente anche la vitamina A, la vitamina E, e aminoacidi solforati e non solforati, l'arginina, l'acido glutammico, la cistina, la biotina, sono questi gli oligoelementi importanti, sono questi quelli che bisognerebbe introdurre quando abbiamo un problema di fragilità ungueale, nel senso, una volta escluso cause organiche più importanti. Altri però ascoltatori ci stanno scrivendo i loro rimedi. Il succo di limone, dottoressa Lorenzi, funziona? Ma allora, questo succo di limone si trova in tutte le ricette della nonna, nelle ricette erboristiche. No, il succo di limone direi che viene utilizzato per dare lucidità alla lamina, ma non ha alcuna azione idratante, il succo di limone non penetra attraverso la lamina. Ne dico un'altra, succo di limone e olio extravergine d'oliva, ci suggerisce Claudia? No, sì, sono degli impacconi che sicuramente possono conferire brillantezza, diciamo così, alla lamina, ma è un fatto fittizio, nel senso che la lamina si lascia, diciamo così, accarezzare in superficie, ma però queste sostanze in profondità non penetrano, quindi non possono sicuramente giocare sull'elasticità della lamina stessa, e quindi non hanno alcuna azione idratante. Dottoressa Lorenzi, all'inizio abbiamo detto unghie specchio della nostra salute. Quali sono, a parte la fragilità che abbiamo visto può avere diverse cause, quali sono gli altri problemi delle unghie che potrebbero essere spia di malattie che con le unghie hanno poco a che fare, insomma, che non partono dalle unghie ma proprio sono solamente un sintomo, un segnale? Beh, esistono numerosissime malattie internistiche, come accennavo in precedenza. L'unghia, se si lascia guardare, può dirci tante cose. Esistono numerose patologie respiratorie, che sono quelle che danno le cosiddette dita bacchetta di tamburo, quando la lamina delle unghie delle mani aumenta notevolmente la sua curvatura, quindi abbiamo proprio unghie convesse. Quella è legata a patologie respiratorie. Sì. In realtà esistono anche delle patologie epatiche, che si esprimono sulla superficie della lamina ungueale con delle aree di leuconichia, che sono quelle chiazze bianchiastre che noi molto spesso attribuiamo al calcio. In realtà, quando queste aree biancastre hanno una particolare morfologia, possono essere correlate a stati di patologia epatica o renale. Esistono le cosiddette unghie a cucchiaino, sì. Sono espressione di gravi stati di anemia. Insomma, ce ne sono. Possiamo esplorare tutto l'organismo attraverso una lamina ungueale. E noi andiamo a Roma, c'è Susanna che ci aspetta. Buongiorno Susanna. Buongiorno, salve. Io chiamavo per avere un consulto per il mio ragazzo. Sì. Allora, lui ha un problema soltanto sui pollici delle mani. E diciamo, le unghie sono in senso orizzontale, hanno delle onde. Sì. E poi hanno dei veri e propri solchi invece, sì, in senso verticale, tutto però nella parte centrale, e quindi, sì, proprio in questa parte centrale il colore è diverso. Quindi c'è sia una compromissione della superficie e anche del colore. Soltanto però il resto è perfetto, le altre unghie sono perfette. Perfette. Va bene, sì. Allora dottoressa Lorenzi, Susanna ci ha fatto veramente, Susanna ha fatto una descrizione molto precisa. Unghie solamente, come facciamo spesso noi donne quando dobbiamo descrivere il problema del fidanzato, del marito, del compagno, vero? Sì, devo dire che no, quello che mi fa piacere effettivamente è che se una persona è molto attenta nel guardare, nel descrivere, veramente ti aiuta a fare una diagnosi. Allora, questa patologia ha un nome e si chiama distrofia canaliforme di Heller. È proprio un canale che percorre centralmente la lamina ungueale. Sì. Ed è in realtà una forma di onicotillomania. Quindi in un certo senso è una specie di tic, è il paziente che si produce questa alterazione, sì, picchiettando con l'indice, sì, la piega ungueale prossimale, cioè picchietta in maniera nervosa, a volte anche senza riconoscerlo, con l'indice e il pollice, e si produce questa lesione determinando proprio un trauma a carico della matrice della lamina. Susanna, è ancora in linea con noi? Sono. Susanna, lei ha notato che il suo fidanzato si tocca l'unghia? Ha questa sorta di tic? In realtà no, ce l'ha da un po' di tempo, quindi forse prima che io comparissi nella vita, però penso di non. Abbiamo, no. Prima di conoscere Susanna, forse il questo ragazzo. Prima. Ecco, vedi, adesso che conosce Susanna è diventato un altro uomo, ma paga un po' le sue conseguenze, dottoressa Lorenzi. Allora, facciamo un test. Susanna, applichi un cerotto sulle dita del suo fidanzato, glielo faccio tenere per un po', per qualche mese, un cerotto durante il giorno, ok? Sì. Se è come dico io, nell'arco di qualche mese vedrà che l'unghia cresce sana, inizia a crescere sana, ma chiaramente ritornerà sana solo quando sarà completamente modificata la lamina, ok? Quindi ci vorranno un 5-6 mesi. Sì. Ma il cerottino è d'aiuto, perché se è quello che dico io, quando lui arriva con l'indice trova il cerotto e non tocca l'unghia. Allora Susanna, ci faccia sapere, quindi regali due cerottini al suo fidanzato, voilà, per la fine dell'anno è a posto, poi ci racconti. Grazie Susanna. Andiamo allora a guardare insieme le unghie di Dina, che ci chiama da Padova. Dina, buongiorno. Buongiorno. Senta, io avevo sto problema appunto di sfaldamento di unghie. Diciamo che nel mio lavoro ho grossi problemi, perché mi si attaccano sui tessuti, faccio fatica a lavorare. Però ho anche problema legato anche sui capelli, che sia corregato il discorso? Grazie Dina, unghie e capelli, dottoressa Lorenzi, quando le unghie si spezzano i capelli fanno, li seguono a ruota o comunque sono più spenti, hanno meno tono, perché sono un po' parenti, giusto? Beh, direi che sono dei fratellini. Fratellini, facciamo anche... direi che proprio sono dei fratelli, gemelli quasi. No, nella composizione chimica è anche il capello è costituito da cheratina, ok? Quindi la cuticola ha una composizione organica molto simile alla lamina ungueale e non è infatti un caso quando si hanno appunto degli stati carenziali, quando qualche aminoacido scende al di sotto dei valori della soglia, anche i capelli iniziano ad avere gli stessi problemi, quindi si spezzano, sono fragili, perdono tono, lucidità. Ecco, forse è il caso di fare un accertamento, nel senso ricercare un po' tra quelle sostanze che ho citato per vedere effettivamente se sono tutte entro il range o inizia a esserci qualche problematica, soprattutto ecco, quindi, nella sideremia e nella ferritina. Ecco, quindi dottoressa Lorenzi, se le unghie sono particolarmente fragili, è inutile provare con olio, limone, insomma con tutti gli intrugli, ci sono tante persone che ricorrono a degli smalti rinforzanti. Se il problema inizia a diventare serio, è meglio dare una controllatina, quindi fare degli esami che ci permettono di valutare un po' il quadro generale. È questo che possiamo dire, dottoressa? Sì. Sì, anche perché vorrei ricordare a tutte le signore che lo smalto ha la stessa funzione del limone, cioè nel senso che lo smalto rinforza un po' quella che è la parte veramente superficiale, ma poi siccome poi utilizziamo dell'acetone dopo per rimuoverlo, non facciamo altro che peggiorare ancora di più lo stato di fragilità della nostra lamina. Quindi cerchiamo di scendere nel particolare del problema. Andare alla sostanza, alla dottoressa sostanza. Lorenzi. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. A volte cambiano, parliamo di unghie, di quelle delle mani che sono fragili, di quelle dei piedi che invece tendono a diventare più spesse. Abbiamo già individuato alcune delle possibili cause e la dottoressa Lorenzi ha già suggerito qualche indicazione. Ma io vorrei salutare il dottor Sabatino Pallotta, dirigente medico, specialista in dermatologia e reumatologia all'IDI di Roma. Dottor Pallotta, buongiorno e benvenuto, auguri anche a lei. Buona giornata. Dottore, abbiamo detto che le unghie parlano della nostra salute, ci danno indicazioni importanti. Quando parliamo di unghie, noi dobbiamo parlare anche di un segnale importante che ci mandano legato alla psoriasi. Dottor Pallotta, ci aiuti a guardare, perché le unghie, quando sono alla psoriasi ungueale, è un segnale molto importante che non va assolutamente trascurato. Perché? Perché può essere in alcuni casi, in alcuni pazienti, non per tutti fortunatamente, un segnale a volte precoce che ci può far individuare con un netto anticipo a volte un coinvolgimento anche articolare, perché oggi la psoriasi artropatica è una patologia sicuramente in aumento nei nostri pazienti, però per fortuna riguarda una popolazione abbastanza ristretta nell'ambito dei soggetti affetti da psoriasi. Le alterazioni possono essere molto semplici, come il cosiddetto aspetto un po' additale, cioè un'unghia con delle piccole puntine, quello che si chiama pitting, delle piccole depressioni. Altre volte invece può iniziare a modificarsi il colore, quindi una lamina che non è più lucente inizia a diventare via via opaca. E una cosa molto particolare, la psoriasi è il cosiddetto interessamento a salto, cioè le unghie sono coinvolte non tutte contemporaneamente, come ad esempio nel corso di un'infezione fungina, quindi una micosi ungueale classica. Dottore, quindi queste indicazioni noi le diamo alle persone che già soffrono di psoriasi, oppure in alcuni casi la psoriasi può manifestarsi in una fase iniziale all'inizio solo nelle unghie, quindi? Prevalentemente è più nei pazienti affetti da psoriasi questo tipo di discorso, perché è meno frequente che la psoriasi possa dare come segnale proprio inizialissimo un coinvolgimento ungueale, però a volte può essere possibile, quindi un'attenzione sotto questo punto di vista sicuramente è meritevole per poi eventualmente rivolgersi allo specialista. Sono a essere interessate, sono più le unghie delle mani o quelle dei piedi? Prevalentemente il coinvolgimento può interessare entrambi i distretti, quindi sia le dita della mano che del piede. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Ancora auguri. Anche a voi auguri di buona fine e buon inizio. Grazie, dottor Pallotta. Arrivederci. E adesso noi andiamo a Torino, ci aspetta Concetta. Buongiorno, auguri. Buongiorno a tutti. Senta, dottoressa, io le volevo dire una cosa, come ho detto ai vostri collaboratori. Io soffro di psoriasi unguiale ai piedi, ed sì, è una cosa tremenda. Su 10 unghie ne sono salvate solo 2. La psoriasi però soffro da quasi 10 anni. Naturalmente ho provato di tutto, sono in cura dalla dermatologa, eccetera. Volevo chiedere una cosa, dottoressa, se in questi casi è utile prendere degli integratori. Dottoressa Lorenzi. Mi scusi, dottoressa, sì, Nicoletta, che volevo dire questo, non solo alle unghie ovviamente o la psoriasi, ma alla pianta dei piedi, quindi è fastidiosissima e dolorosissima, nel senso che procuro dei traumi come cammino, quando riesco a camminare. Certo. Volevo appunto sapere se gli integratori possono darmi un aiuto. Dottoressa Lorenzi, possiamo aiutare Concetta? Allora, devo dire che quando la psoriasi ha un esteso interessamento, quindi interessa non solo la lamina ungueale o la cute, esistono diverse terapie sistemiche, la ciclopsorina e il metotrexate, che portano anche dei miglioramenti, non soltanto quindi a livello sistemico ma anche a carico dell'apparato ungueale. È chiaro che questi farmaci, si ricorre a questi farmaci quando ci sono le indicazioni cliniche, quindi non si possono avere solo le unghie interessate, ma deve esserci comunque un'estensione importante. Per quel che riguarda le alterazioni ungueali della psoriasi, sono numerose, sono variabili in relazione alla gravità della psoriasi, quindi si può andare da alterazioni molto semplici, come ci riferiva prima il dottore, quindi il semplice pitting, le salmon patch, quindi l'onicolisi, a alterazioni molto più gravi, dove si ha proprio un'alterazione della consistenza e della consistenza e della superficie dell'unghia, quindi le unghie si sfaldano. Allora, attualmente gli integratori, devo dire, non hanno un grosso valore, un grosso riconoscimento nell'ambito della cura della psoriasi ungueale. È uscito uno studio molto recente, è stato fatto uno studio molto recente su una lacca ungueale, che in realtà è un integratore, però nelle forme di psoriasi lieve, quindi quando ci sono delle alterazioni molto lievi. In quel caso... Questa lacca poi in qualche modo protegge. Questa lacca, fondamentalmente aiuta a ricostituire la lamina insieme chiaramente alla terapia della patologia stessa, ok? Cioè è importante fare il trattamento di base della patologia. In questo caso qui un integratore sotto forma di idrolacca può avere un valore adiuvante, ok? Concetta, ne parli con il dermatologo da cui è in cura e poi... No, ma dirle una cosa alla dottoressa, la dermatologa, sì, che ho fatto queste terapie che sono tipo, non so se posso dire il nome, tipo Neotica, sono che ha degli effetti collaterali tremendi, calvizie, eccetera. In quel periodo lì che ho fatto questa terapia le unghie sono cresciute, ma poco. Come ho smesso di fare la terapia sono tornato allo stato precedente, capito? Quindi non c'è stata una soluzione definitiva, parlo per le unghie perché sappiamo che per la psoriasi non esiste cura per la guarigione se non qualche miglioramento. Quindi queste terapie sono degli effetti collaterali tremendi proprio sotto tutti gli aspetti. Beh, ma infatti è quello che dicevo prima, queste terapie trovano un loro razionale quando hanno un quadro clinico che giustifichi il loro utilizzo. Signora, tutte le terapie hanno degli effetti collaterali, queste maggiormente, chiaramente però lei capisce che se la psoriasi è invalidante a volte si può anche accettare la presenza di alcuni effetti collaterali se migliora la qualità di vita, certo, ok? Non se la peggiora, è normale. Però vorrei rientrare nel concetto che la psoriasi tuttora, ancora oggi, viene definita come una malattia ad andamento cronico recidivante, quindi purtroppo non abbiamo una terapia definitiva, abbiamo delle terapie anche innovative come sono i biologici che possono sicuramente molto migliorare la qualità di vita e dare dei periodi di stabilità prolungati nel tempo, ma purtroppo la patologia è cronica. Lorenzo da Trento, benvenuto. Io ho un lavoro molto pesante, lavoro il porfido e quindi ho le mani molto sollecitate, no? Sì. E devo dire che uso i guanti praticamente tutto il giorno, no? Specie la mano sinistra che è quella che uso di più con il porfido, con i cubetti. Sì. E io ho una sensazione a fine giornata o anche durante il giorno che non è indipendente dalla temperatura, se è freddo, se è caldo, se mi suda la mano o meno, ho come una sensazione di fastidio, dolore è un po' una parola impegnativa, ma di fastidio, sì, sotto le unghie. verso la punta, come qualcosa che spinge, che mi spinga le unghie, sì. Fastidioso, ecco. Volevo capire di che cosa si tratta, grazie. Grazie Lorenzo. Dottoressa Lorenzi. Questa allora, è difficile, mi sembra, no? Sì, no, nel senso che se da un punto di vista morfologico non c'è niente a carico della nostra lamina, perché molto spesso i pazienti riferiscono questa problematica e allora hanno paura che magari sia un fungo, cose di questo genere. Allora, se non c'è niente che ci indica delle alterazioni a carico della lamina, devo dire che probabilmente forse è più un problema di tipo nevritico. Attenzione, cioè l'unghia è una struttura che è sopra a una sopra alla falange distale, okay? Sì. E ha un contatto molto vicino con la falange distale, quindi non dimentichiamo che tutto ciò che a volte è a carico della struttura ossea può ripercuotersi a carico della lamina, nel senso che noi lo avvertiamo sulla lamina, ma in realtà non interessa la lamina, è una cosa che interessa le strutture sottostanti, e questo vale sia per l'osso, quindi la falange distale, sia per le più fini terminazioni nervose che sono a carico delle mani. Ora, questa sostanza che si utilizza può avere anche degli effetti tossici, sono descritti degli effetti tossici di numerose sostanze chimiche a carico che danno delle alterazioni ai nervi. Sì, okay? Quindi questa sensibilità che di Lorenzo potrebbe... La sensibilità potrebbe da essere da ricondursi a un fatto di questo tipo. Potrebbe. Adesso noi abbiamo parlato di unghie come specchio della nostra salute, ma sappiamo che le unghie danno anche bellezza alle nostre mani. E quando parliamo di bellezza, io ho un unico pensiero. Penso a Cinzia Felicetti, che è in linea con noi. Ciao Cinzia. Buongiorno a tutte. Giornalista e scrittrice, autrice di Più bella con i tuoi colori, edito da Sperling, di cui parleremo non oggi ma con una puntata dedicata. È un libro magnifico che vi consiglio di acquistare, di leggere, di regalare, perché è ricco di informazioni molto utili, ma poi ne parleremo. Cinzia, le unghie belle. Le unghie belle sono le unghie curate bene? Assolutamente, per me la vera eleganza è senza sforzo, quindi quando vedo queste unghie che stanno andando anche molto di moda, quindi con queste colate laviche di Swarovski oppure molto dipinte, io sono veramente, come dire, basita. Vedo queste unghie con paesaggi, addirittura scene animaliere che sembrano proprio ispirate direttamente dalla giungla. Sono proprio dei piccoli mondi a parte queste unghie, che però, diciamolo francamente, fanno un po' lap dancer in libera uscita a volte, no? Perché sì, sono davvero eclatanti. Poi richiedono, secondo me, oltre al porto d'armi, perché sono sicuramente sì, sono pericolosissime, ma poi richiedono, secondo me, anche un attendente per poter raccogliere gli oggetti oppure fare le cose più semplici. Te le immagini queste unghie così in un momento molto prosaico, ma penso appannaggio di tutte, come il lavaggio dei piatti. Sì, con l'unghia con i decori animalier mi sembra, però se uno ha l'attendente lì gli fa lavare i piatti e le può... Esatto, intanto te le contempli. Ecco, queste secondo me sono esasperazioni un po' aberranti, che ripeto stanno andando davvero molto di moda. Anche in redazione a El.it ci arrivano proprio cataloghi interi con un campionario di unghie veramente un po' da circo equestre. Cinzia, adesso ci sono le informazioni del traffico, ma ti tengo ancora qui con me, ci sentiamo subito dopo. Promesso, eccoci di nuovo insieme, in linea con noi la dottoressa Lorenzi e Cinzia Felicetti. Cinzia, parliamo di unghie e parliamo anche di moderazione. Lasciamo perdere decorazioni un po' troppo eccentriche, anche se magari l'ultimo dell'anno siamo portate a esagerare un po'. Diamo allora qualche consiglio alle nostre ascoltatrici che devono scegliere lo smalto per l'ultima serata dell'anno. Che consigli possiamo dare? Ma guarda, la novità proprio di quest'anno è stato il verde giada. Oh, per carità. Già non mi vedo. È un colore impegnativo. Oppure questo azzurro molto, molto forte. Io ti dico, purtroppo ho un approccio molto classico all'eleganza, quindi non vi posso dare letteralmente man forte oggi, però ecco, se siete delle amanti proprio dello smalto a tinte forti, ecco, ricordate che funziona un po' come un accessorio a sé stante, cioè avere comunque delle unghie molto colorate, molto protagoniste, significa poi dover giocare un po' sull'understatement, un po' al ribasso, un po' sul basso profilo dal punto di vista dell'abbigliamento. Ecco, vedo, e questo mi provoca proprio un tenero struggimento a volte, proprio delle triangolazioni tra lo smalto per le unghie, la calza o la borsetta. No. Ecco, tutto questo è troppo. Richiede appunto uno sforzo e uno studio che porta veramente a risultati a volte anche ridicoli. Quindi no, se avete delle unghie particolarmente protagoniste, il resto deve assolutamente passare in secondo piano. Quindi mi raccomando, cura e moderazione. Cinzia, un abbraccio. Anche a voi, a prestissimo. Grazie. Ciao. Dottoressa Lorenzi, lei come porta le unghie? Non so se lei sia bionda o mora, ma insomma, perché si verrebbe da dire così, no? Come porti le unghie, bella bionda? Bravissima, ha dato una descrizione veramente bellissima, molto coreografica, devo dire, nell'immaginario ci si poteva immaginare di tutto. No, io ho delle unghie molto da medico, quindi corte, molto per visitare. Corte, senza smalto, curate, ma la cura è un'altra cosa. Okay. Ecco. Un buon manicure fa sempre bene. Attenzione alla manicure. Chiudiamo questa nostra chiacchierata sulle unghie. Manicure, attenzione agli attrezzini. In America ormai è uso che ogni signore porti dalla manicure gli attrezzini personali. Dottoressa Lorenzi, lei che ne dice? Una bella moda? Assolutamente sì, anche perché devo dire che ci sono state delle richieste di indennizzi per delle infezioni prese nei centri di manicure, che poi dopo si sono attrezzati tutti, quindi herpes, ungueali, infezioni batteriche. Ecco. E oggi chi vuole viaggiare tranquillo deve viaggiare col proprio set di manicure nella borsetta, portare questo nel centro estetico e farsi trattare, ecco, con i propri ferri. Mi sembra che questo sia un buon consiglio con cui chiudere questa nostra chiacchierata. Dottoressa Lorenzi, ma tanti auguri! Sì, un augurio veramente a tutti. Un abbraccio. A tutti quanti. Un grazie. Abbraccio, grazie. E adesso parliamo di stelle di Natale. Sono entrate nelle nostre case con i loro colori sgargianti che fanno festa, ma adesso iniziano per loro giorni un po' difficilini. Allora rispolveriamo il nostro pollice verde e mettiamoci subito al lavoro. Ci aiuta Nadia Nicoletti, autrice dell'Insalatera nell'Orto, l'orto a scuola e nel tempo libero, Salani Editori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Nadia, queste stelle che sono le vere star delle nostre case, perché danno subito quel tocco di atmosfera natalizia, così belle rosse con le foglie verdi, iniziano così a diventare, no, a tirare un po' giù le orecchie. Ma guardi, questa pianta è originaria del Messico. Sì. Perché noi quando parliamo di questa pianta bisogna ricordare da dove viene. E nel Messico raggiunge altezze che possono raggiungere anche i 5 metri ed è fiorita proprio nel periodo di Natale. Per cui quando la teniamo nelle nostre case dobbiamo ricordarci che ha bisogno di caldo, ma non troppo, per cui vicino ai termosifoni non va messa, vicino alle fonti di calore dirette no, bisogna metterla in un posto dove non prende correnti d'aria fredda. E poi attenzione all'acqua, ci vuole acqua un paio di volte in settimana, preferibilmente data nel sottovaso, da sotto, ma non che ristagni, per cui stare attenti che l'assorba tutta e poi se eventuale acqua in esubero buttarla via, in modo che le radici non vengano soffocate. Sì. Per cui niente acqua stagnante, qualche nebulizzazione leggera una volta in settimana con uno spruzzino e questa pianta può rimanere nelle nostre case per alcuni mesi se curata e con questi accorgimenti. Una volta che questa pianta perderà le foglie, quando andiamo verso la primavera, basterà una potatura in modo da eliminare i rami di quest'anno, messa a riposo anche all'aperto quando viene poi il mese di aprile, il mese di maggio, e poi lentamente nel corso dell'estate rimetterà le foglie e se la curiamo potrà anche rifiorire il prossimo anno. Senta Nadia, ma lei è mai capitato di far rifiorire una stella di Natale? Sì, mi è capitato, però una volta sola. Una volta sola. Sì, mi è capitato, sì, mi è riuscito. Quando guardiamo questa pianta dobbiamo anche ricordarci che i petali rossi, sì, che poi non sono solo rossi, ma in commercio esistono adesso bianche, quelle bianche, sì, eccetera, non sono in realtà i petali, ma sono le bratte, cioè una forma di foglie che fanno la funzione di corolla, però in realtà sono delle bratte. Il vero fiore è la parte gialla che si vede all'interno. Questo è interessante da sapere, sì, perché certo, è una forma così di infiorescenza un po' strana. E non a caso Nadia Nicoletti è maestra e giustamente ci insegna, no? Sì. Io volevo approfittare di lei anche per dare un'indicazione. Ci scrive subito Maria, mi dice: io sono piena di ciclamini, li tengo in casa o li tengo fuori? Io direi fuori, sbaglio, signora maestra? Guardi, io sono in Trentino e di notte qui fa molto freddo, per cui qui facciamo questa cosa qua, che li teniamo sui davanzali e poi la sera chiudiamo le imposte e rimangono un po' riparati. Sì. Per cui fuori in un posto un po' riparato va benissimo, perché il ciclamino l'errore più grosso che facciamo è proprio quello di dargli troppo calore, sì, e anche troppa acqua. Anche qui col ciclamino mai l'acqua stagnante, preferibilmente metterlo ogni 2-3 giorni a mollo il vasetto in un po' di acqua e poi toglierlo, lasciarlo 10 minuti e poi toglierlo. E preferibilmente comunque direi fuori in un posto, i nostri terrazzi sono abbastanza riparati, per cui va benissimo fuori, così come gli ellebori. Che ho visto molto nelle fiorerie del periodo di Natale, sì. L'ellebolo è detto anche la rosa di Natale, è questo fiore, e adesso ce ne sono di tutti i colori, ma quello che va per la maggiore ha un fiore bianco, e quello va messo assolutamente fuori, non è una pianta d'appartamento. Anche è se fa così freddo, povera rosellina? No, non è una rosa, è l'ellebolo detto rosa, sì, di Natale, ma è una pianta che in realtà è una pianta del sottobosco, per cui sta molto bene fuori, nei terrazzi, anche sul davanzale, perché viene regalato e poi si tende a tenerlo in casa, invece dentro per questa soffre, pianta non va bene. Allora Nadia Nicoletti, con i suoi consigli cercheremo di regalare un po' di benessere alle nostre piante, perché piange veramente il cuore a vederle striminzite, un po' secche, che soffrono, no? Sì, però state attenti, l'importante è sempre stare molto attenti con la temperatura, di non andare troppo sul, cioè metterle troppo vicino ai termosifoni, e non esagerare con l'acqua. Ecco, perché sembra un gesto d'affetto, no? Di occuparsi, esatto, di loro, allora do l'acqua, e tante volte loro ne farebbero veramente a meno. Ne farebbero volentieri a meno, e anche perché bisogna pensare sempre a come in natura queste piante poi sono, come vivono, certo, per cui non hanno poi tutta questa acqua o tutto questo calore come può esserci vicino a un termosifone. Quindi un po' di Messico per le nostre stelle di Natale, voilà. Sì. Sì. Grazie a Nadia Nicoletti, auguri, a tutti. Buona giornata. Vi auguro buon anno, noi ci sentiamo presto, come sempre, a partire da lunedì, dopo il GR delle 11, ci sentiamo nell'anno nuovo, vi aspetto.